Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapete che in futuro la principale domanda di robot verrà dalla Cina? Noi abbiamo un'immagine della Cina come paese che fornisce lavoratori a basso costo e quindi ci si chiede come mai possono volere commissionare, investire nei robot. Invece è così. Il mondo dei robot è affascinante ma sconosciuto, ci sono un sacco di luoghi comuni, ci si chiede se sostituiranno l'uomo, si fa molta fantasia, ma il mondo dei robot nella sua concretezza, anche se cambierà molto la vita di tutti noi, è ignoto ai più. Per esempio non si sa che l'Italia è uno dei principali paesi della robotica. Tutta la robotica industriale non fa 27 miliardi di euro di fatturato e 5 vengono dall'Italia. Il nostro saper fare meccanico ci all'avanguardia in un settore come questo. Oggi ne parliamo con l'ingegner Arturo Baroncelli. Buongiorno ingegnere. Buongiorno, grazie. Che è uno dei principali esperti nel nostro paese, forse nel mondo, del tema dei robot. Io l'ho conosciuto e sono rimasto affascinato a chiacchierare con lui per delle ore e quindi ho pensato che potesse interessare anche gli ascoltatori. Lui è Business Development Manager della Comau, però è anche presidente del IFR, International Federation of Robotics. È stato docente al MIT a Tolosa, ha fatto oltre 30 pubblicazioni e vari articoli su il complesso e affascinante mondo dei robot. Mondo che va visto nella sua realtà concreta, al di là delle fantasie. Per esempio, lo sapete qual è il rumore che fa un robot? Sentiamolo qua. Ecco, tutto diverso da quello che si può immaginare, no ingegnere? Ma per me no. Probabilmente per il grande pubblico ovviamente sì, perché c'è l'aspetto emozionale legato a questa parola robot, che è affascinante da un certo punto di vista, ma distorce quella che è la realtà dei fatti relativa ai robot industriali e ai robot di servizio. Abbiamo detto all'inizio un dato che potrebbe stupire un po' tutti, e cioè che la più grande domanda di robot verrà proprio dalla Cina. La domanda viene dalla Cina, un quarto dei robot attualmente vanno in Cina. Perché? Semplicemente perché il robot non è un mezzo per fare certi mestieri, è il mezzo nell'automotive, nell'elettronica. Ma perché i cinesi che hanno manodopera a basso costo devono spendere soldi per i robot? Perché semplicemente per raggiungere target di qualità, di costo, il robot è il mezzo, e poi anche perché certi mestieri gli esseri umani non possono farlo. Nessun essere umano può portare 200 kg per 24 ore su 24 a 7 metri o manipolare pezzi a 800 gradi. Questi sono mestieri che solo i robot riescono a fare. E certamente, e i cinesi si stanno evolvendo da outsourcer di produzioni che avevano alto costo del lavoro a produttori sempre di più di cose di qualità, e questo è il motivo per cui hanno bisogno di robot. Esattamente, è proprio come dice lei, perché è il mezzo per fare le automobili, l'elettronica, i PC e vari tipi di lavorazione. Quindi possiamo dire che i cinesi hanno una fame enorme di robot, tanto che saranno i primi nella domanda di robot, perché in primo luogo ne hanno pochi e quindi devono colmare un gap, ma anche perché vogliono fare sempre più produzioni di qualità e valore aggiunto. Esattamente. Ma allora dobbiamo un po' temerla questa concorrenza dei cinesi anche sul nostro saper fare più di qualità? Noi, come al solito si dice che ci sono minacce e opportunità, dobbiamo cogliere le opportunità, perché noi, anche come italiani, abbiamo un'eccellenza nella meccatronica e sappiamo fare, sappiamo innovare e siamo sempre stati capaci di essere un passo avanti agli altri e dobbiamo continuare a farlo. Certamente, ci dobbiamo interrompere un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Fabbrica 2.4. È Ecco, siamo ancora in linea con Arturo Baroncelli, che è uno dei massimi esperti in Italia e al mondo di robot. Abbiamo prima detto che c'è un dato che stupisce tutti, cioè che la massima domanda di robot verrà dalla Cina. Comunque sta di fatto che siamo alla vigilia di una rivoluzione, perché i robot entreranno sempre di più nelle nostre vite. L'International Federation of Robotics, di cui Baroncelli è presidente, ha fatto una previsione per cui passeranno da 1,5 milioni che ci sono quest'anno a 2 milioni nel 2018. Nel 2018 ci saranno 2 milioni di robot che lavoreranno al posto degli umani o li aiuteranno. Ci dobbiamo preoccupare, ingegnere? Assolutamente no, perché sono mestieri in più che faranno i robot. Quindi ogni giorno nel mondo un'applicazione nuova per i robot viene inventata e non vanno necessariamente a sostituire gli uomini, è qualcosa in più, un'operazione che i robot fanno e che con altre tecnologie, non solo esseri umani, non è possibile fare. Forse può esserci un inganno linguistico-psicologico, perché noi li chiamiamo robot e quindi si scatena una fantasia romanzesca. Se invece li chiamassimo macchine, sarebbe forse diverso il modo in cui li concepiamo. Lei stesso mi diceva che la lavatrice si potrebbe chiamare, anziché macchina per lavare, robot che pulisce i panni, e allora tutti la immaginerebbero come qualcosa di differente. Esattamente, è proprio questo. Nessuno si stupisce più se dopo Gutenberg, se i giornali vengono stampati e non scritti da amanuensi. Ed è lo stesso per i robot. I robot sono delle macchine operatrici programmabili e questo non evoca nessun niente dal punto di vista emotivo. Non appena gli si associa la parola robot, ecco che nascono delle questioni. Non c'è nessuna statistica che lega l'aumento dei robot con la disoccupazione, anzi è proprio il contrario, perché quando un'economia tira, ecco che c'è la domanda di robot ed ecco che aumenta l'occupazione. Ecco, è così. Ma siamo forse alla vigilia di un grande cambiamento nel mondo della robotica industriale? Ci siamo, non siamo alla vigilia, ci siamo dentro. Un robot industriale classico è sempre stato diviso dagli esseri umani da barriere fisiche. Ora le nuove tecnologie permettono di avere robot e esseri umani che in maniera sicura, entro certe condizioni, possono collaborare. Questo può permettere la creazione di nuovi sistemi. Robot iperflessibili. Iperflessibili, dove il robot e l'essere umano insieme mettono al meglio quello che possono dare. Quindi è veramente una cooperazione tra robot e esseri umani. Attenzione, i robot non possono far tutto. Non possono fare il nodo della cravatta. Non riescono a farlo. Noi sì. Questo è un esempio stupido, ma serve far capire. Ecco, per capire dove stiamo andando, forse bisognerebbe raccontare ai nostri ascoltatori la differenza fra robot collaborativi e robot di servizio. Lei, quando la racconta, è un incantatore di serpenti. Però qui le chiedo di essere un po' rapido, perché il tempo è tiranno. Sì, molto semplice. Dagli anni 70 in poi il robot non è cambiato molto da quando i motori elettrici e i microprocessori sono stati utilizzati per muovere i robot. Negli ultimi anni, anzi dagli anni 90, sono emersi i robot di servizio. Cosa sono? Robot che vanno non in fabbrica, possono andare nelle case come robot di entertainment, oppure in altri segmenti, ad esempio nella mungitura, nella logistica, nell'ambiente medico, nell'ambiente di salvataggio per salvare le persone. Molti e diversi segmenti. Le tecnologie sono le stesse della robotica industriale, ma sono coniugate per una miriade di altri sottosegmenti. Dove stiamo andando, quindi? Stiamo andando in maniera veloce, disordinata, nell'utilizzo della robotica nei più vari segmenti, come dicevo. Perché? Perché il robot è l'insieme di tante cose, discipline che tutti conoscono, la matematica, il software, la meccanica, l'elettronica, ma ci sono altre discipline, per esempio la neurofisiologia, può esserci tutti gli aspetti biomedicali, addirittura aspetti filosofici, etici e collegati alla legge. Nel robot si sintetizzano diverse discipline apparentemente distinte. Però nonostante questa grande evoluzione della robotica, oggi per alcune fasi della lavorazione di un'automobile è ancora necessario l'intervento manuale dell'operaio. Ci racconti come funziona la dinamica del robot cooperativo che sta a fianco dell'operaio e lo aiuta? Ci possono essere diverse soluzioni. Quella che a me piace di più è questa, un robot e un essere umano che condividono entro certe condizioni lo spazio operativo. Il robot si fa carico delle operazioni più noiose, più faticose, l'essere umano invece utilizza quelli che sono i suoi sensi, la sua intelligenza, la sua cura per eseguire operazioni di montaggio, di lavorazione di ogni tipo, come dicevo, mettendo al meglio le capacità dei due soggetti. E si fanno anche compagnia? Ma ci sono robot per entertainment, i robot industriali sono piuttosto noiosi, ma ce ne sono altri molto simpatici che possono fare questo. Sì, sì. Comunque lei è molto bravo a raccontare la nascita della robotica e da come si è arrivati dal 1961 a Trenton, quando in General Motors c'è stato il primo robot che ha preso con le sue pinze un pezzo incandescente, fino ad oggi. Io mi chiedo, lei riesce a raccontarla nei 5 minuti che ci restano, sopportando anche qualche mia breve interruzione? Assolutamente sì, e sarò anche più veloce. Il primo robot è stato installato nel 61, come ha detto lei, e prima non è che non ci fosse l'automazione, dai tempi dei romani, ma anche prima degli egizi c'era l'automazione, ma la chiamiamo rigida. Forse l'esempio visuale più facile è quello di Charlie Chaplin in tempi moderni, quando viene abbrancato dal sistema automatico. Il robot, il primo, sia pure rudimentale, aveva 3 cose in più, molte cose in più, ma almeno 3. Poteva muoversi in uno spazio infinito di punti, poteva essere riprogrammabile, quindi oggi poteva fare una certa traiettoria e domani un'altra, ma la terza cosa era formidabile, poteva prendere decisioni. In pratica, se il pezzo caldo preso dalla pressa della General Motors trovava un punto già occupato, il robot poteva decidere se aspettare o metterlo in un altro punto. E tutti, anche i non tecnici, possono capire cosa ci può essere sotto questa possibilità. E prendeva decisioni senza che ancora ci fossero moderni computer. Era un robot anch'esso rudimentale, ma le logiche erano le medesime di oggi, sia pure logiche ovviamente. E quello era un robot collaborativo o di servizio? Oh, assolutamente pericolosissimo, non poteva assolutamente essere messo vicino. Era un robot di servizio? Era un robot industriale molto pericoloso al tempo, ci dovevano essere separazioni nette. E poi come siamo arrivati alla divisione fra robot collaborativi e robot di servizio? Siamo arrivati, dunque, un primo step c'è stato negli anni 70, quando microprocessori e robot e motori elettrici sono stati utilizzati al posto di vecchi motori idraulici. Negli anni 90 c'è stata questa crescita dei robot di servizio, le tecnologie emergenti derivanti da aziende e da molti spin-off universitari ha anche, in quella che chiamiamo cross-fertilization, portato alla robotica industriale tecnologie che, con diversi tipi di sensori che non posso spiegare adesso, permettono questa condivisione di lavoro tra l'essere umano e il robot senza barriere. Ho capito. Ecco, ma continui nella storia. Poi, da quelle cose che sono state fatte a Trenton con General Motors, che cosa è successo? Ma è successa una cosa interessante. Negli anni 60 gli americani avevano il predominio della robotica, che poi non hanno più avuto. Sono state le aziende europee, tra cui la Comau, dove io lavoro, e i giapponesi. Attenzione, quando negli anni 70, ma ancora negli anni 80, io ho cominciato a lavorare nel 85, c'erano oltre 200, 300 aziende che facevano robot. Poi, come ogni industria, c'è stato quello che gli anglosassoni chiamano shakeout, cioè solo alcuni sono sopravvissuti. Come una di queste? Ci sono oggi solo 7 produttori mondiali che hanno robot, una completa gamma di robot, dai piccoli ai grandi. E chi sono gli altri? Abbiamo 4 costruttori giapponesi e europei. C'è la Fanuc, la Yaskawa, la Nachi, la Kawasaki in Giappone. abbiamo la Kuka in Germania e la BB in Svizzera, in Svezia, e poi c'è anche a mezza strada anche la Hyundai, tutti molto forti, ma ripeto, ci sono solo questi oggi. E noi siamo tra quelli. E come abbiamo fatto noi italiani a essere così bravi nel costruire robot? Perché noi, proprio noi? Noi abbiamo una storia della meccatronica in generale estremamente ricca. Lei pensi che la società italiana di robotica, di cui io sono membro, è nata 40 anni fa, 41 anni fa, seconda solo ai giapponesi. Ma la nostra storia perché? Perché noi siamo artigiani. Addirittura la Comau si comprò la Renault Automazione, che era la concorrente in qualche modo. Sì. Come la Comau era legata alla Fiat, la Renault era della Renault, e noi siamo andati, siamo riusciti, forse caso unico, a fare un'acquisizione in un settore come questo in Francia. Beh, fa parte della nostra storia. Non abbiamo acquisito solo la parte di Renault Automazione, ma abbiamo acquisito altre aziende in Francia, in America. In giro per il mondo. Noi siamo un'azienda di oltre 12.000 persone al mondo, siamo un gigante. Ecco, io parlerei con lei per ore, però il tempo è tiranno, sì. Ma prometto ai nostri ascoltatori che parleremo ancora di robot e di robotica molte volte, perché noi siamo Viaggio nell'industria che cambia, e l'industria che cambia ruota moltissimo attorno alla robotica, che è una delle due grandi rivoluzioni, insieme a tutto quello che vuol dire interconnessione, digitalizzazione, internet delle cose, fabbrica 4.0. Arrivederci, ingegner Baroncelli. Grazie a tutti. E arrivederci agli ascoltatori sabato prossimo, ore 14.